la zona della radio M, no, quella di quant'era, 530 kHz ai 1600, è stata mezza abbandonata. Vendevano anche dei kit o dei progettini per farsi la propria radio di quartiere in AM. Lì magari con qualche watt in più il segnale dovrebbe viaggiare un po' di più, almeno per via propagazione, dai, diciamo. Non so se ne avevi mai sentito parlare. No, la verità no, non ho mai sentito parlare, ma comunque a me più che altro mi interessa quella FM, già lo sai. Adesso vedremo. Adesso sono in uscita perché ho speso, già lo sai, ho fatto arrivare quei brick, 20 di quelle cassette di brick da 4 mi sono costate qua, 200 euro, e quindi quando a 14 arrivano i soldi ce ne vuole. Ho controllato adesso, ci sono 158 euro. Figurati, stavolta sono andato al supermercato, ho fatto la spesa, eccetera, eccetera, e quindi ce ne sono arrivati 158 euro, 200 e qualche cosa che c'è. Quindi devo arrivare almeno fino a 14, dopo 14 c'è un po' che parlare, quindi 27 mi ha caricato un cazzo, perché lo sai che c'è il mese di stop, io sono nel mese di stop adesso, fino a 14 di agosto non caricano niente, manco i 500 euro che ti regala lo Stato, che poi li tira a settembre, o li tira adesso, è una cosa per il culo, capito, fatta dalla Meloni. La Meloni anche da quella forza del Ministero del Lavoro, quindi a un certo punto non bisogna mai fidarsi, spero solo di tirare i 14 in modo da incassare un po' di soldi, capito? Dopo che c'ho un po' di soldi, allora posso anche sbilanciarmi un pochettino e ordinarmi, spendere 150 euro tanto per dire, per un trasmettitore FM, in modo Doncaster da potermi divertire. Ma radio di quartiere, non è che sto dicendo molto, 5 watt, 15 watt, tanto me farò quei sassari ossitissi, arrivo a casa tua, la veloce, dopodiché a giovedì, non è che devo andare in casino. Ti fai radio Pomponio e con l'altro ti fai tele Pomponio. Ti registri col cellulare i dibattiti, cosa, tutto, ti organizzi tribune politiche e la trasmetti in TV, però in analogico. No, guarda che c'è un tipo che è stato furbo invece, sai cosa ha fatto? Si faceva i video di Freedom, hai capito, eccetera, eccetera, seguiva tutto quello lì, si è fatto una pagina web, si è fatto su internet, ed era molto seguito, aveva avuto un sacco di follower, ma lo sai che l'hanno assunto alla Fininvest, l'hanno assunto, e lavora con quello di Freedom, lavora, hai capito? Anche lui di cosa, quindi lì lavora, ha trovato lavoro, hai capito? Stabile, facendo una coglionata del genere, si è inventato un lavoro per i fatti suoi con internet, dopodiché l'hanno preso e hanno visto che gli avevano un sacco di fans e cose del genere, lo seguivano su internet, hanno preso e l'hanno chiamato, hai capito? Sì, adesso rilancio Giulio fra a breve. Sì, infatti internet è l'ultima frontiera, adesso questa storia della TV di quartiere, queste cose analogiche, è giusto per giocare, però è carina la cosa. Vabbè, anche la radio FM, anche perché poi qua è tutto sarebbe regolamentato, ma vabbè. Giulio, riprendi. Ok Marco, tu che hai parlato di radio commerciale da 530 a 1600 MHz, io ne avevo costruito una radio del genere tanti anni fa, ma parlo di almeno minimo 30 anni fa, compravo dei corsi, prima vabbè, facevo le radiogalene eccetera eccetera, poi usavo un amplificatore e usavo e la facevo diventare una radio normale, la radiogalena, però la radiogalena era una radiolina che ti prendeva 3-4 stazioni, non di più. Allora si poteva fare oggi, perché era una radiogalena AM, no? Oggi non è più possibile, in quanto la RAI non trasmette più in AM, prima, e allora era possibile farlo. Oggi sono tutti quanti in FM, queste emittenti radio. E ti stavo dicendo, prendevano dei kit, prendevano. Io andavo sempre da Melchiori, ho preso un sacco di soldi e ho fatto tante di quelle cose che tu non hai idea. Tipo anche la radio normale, tipo, che poi normale non era, perché era sintonia varicap, era, e tu cambiavi la stazione girando il potenziometro, come il volume, un potenziometro tipo volume, quello del volume, tu giravi quello e cambiavi la stazione. A differenza di oggi, c'erano questi kit che vendevano, costavano anche, se devo dire la verità, costavano, però ti dava la possibilità di divertirti e di fare applicazioni elettronica, per cui io li compravo, essendo sempre stato appassionato di queste cose, ho preso una massa di soldi, basta sempre. E dunque questa radiolina l'ho costruita almeno 30 anni fa, forse anche 35. E ce l'avrò, credo di avercela ancora, conservata da qualche parte, chissà dove ce l'ho buttata, in mezzo a delle cose, a degli scarti di elettronica, dove ci sono tanti componenti, condensatori, resistenze, di tutto insomma, ecco. Ed era il periodo soprattutto, anche quando facevo i microfoni lo stesso, cos'è che non ho fatto? Allora, quello l'avevo copiato da un microfono SBE, l'avevo copiato, l'avevo fatto la basetta, tutto quanto, e facevo i microfoni che poi ho distribuito a tanti amici. Il microfono cosiddetto microfono di legno, che funzionava alla grande, funzionava. Avanti Antonio, ti ricordi le radio a sintonia varica? Antonello è sparito, Marco. Antonello si è desintonizzato, magari la chiamo Tossemona. Sì, c'erano dei kit carini, non solo per ricevere, anche per trasmettere, tipo della Else Kit. Io mi ricordo, mi pare ci fosse anche il trasmettitore AM, ma era nell'ordine di forse dai 100 ai 500 milliwatt sulla banda AM, no, quella 530 kHz, 1600 kHz. Poi c'era quella FM ovviamente, esistevano anche della CTE già pronti, anche le altre marche. Antonello forse aveva avuto quello da 2 watt della CTE, era un parallelepipedo, un cubo, che attaccavi, c'era una spina microfonica e quelle bruttissime antiche, no? Gli davi dell'audio, gli attaccavi l'antenna tarata e era arrivato a casa lui da via dicendo. Riusciva a farsi un po' di spazio tra le stazioni FM, in FM era, e avevo sentito la canzone che lui stava trasmettendo, perché lui me l'ha fatta sentire al baracchino, poi sono riuscito a beccare in base alla frequenza la cosa, certo bassino, perché sai, in mezzo ai mostri, anzi ti dirò, adesso forse le potenze sono ancora più esagerate, le radio FM attuali, non saprei. Però sgomitando era riuscito ad arrivare a casa. Sì, beh certo, poi ne avevo fatto uno a reazione, una radio a reazione, quello era micidiale, quello quando la scendevi, il quartiere andava in tizio, o Marco, non era possibile, perché una radio a reazione, oltre a ricevere, trasmette anche, no? Ma manda tante di quelle spurie che tu non hai un'idea. E dunque anche quello ho fatto, poi cos'è che ho fatto? avevo comprato una volta, allora a quei tempi avevo un Pony 23 canali, quelli con l'orologio eccetera, quelli da base fissa, avevo uno di quelli, avevo comprato un VFO dalla elettronica, se mi sembra che sia quella ditta, se ricordo bene ancora il nome, l'avevo attaccata al transistor oscillatore e avevo trasformato il Pony, il baracchino 23 canali Pony, l'avevo trasformato in una radio commerciale mondiale e sentivo tutte le stazioni del mondo, soprattutto la notte, e la sintonia continua questo VFO, e questo VFO faceva sì che di trasformare il baracchino in radio normale, una radio normale che ascoltavo tutte le stazioni del mondo, da tutte le parti, la Russia, il Giappone, la Cina, dappertutto, per dirti, oh, ma cos'è che non si faceva? E altri tempi, sai, eri giovane, avevi quella passione, ci vedevi bene a saltare, a fare, tutte queste cose qua, e allora praticavo certe attività per pratica elettronica e mi divertivo molto, però prendevo anche un sacco di soldi, e manco, perché costano tutte queste cose. Ebbe, quando c'è la passione, ma quella radio a reazione, per caso, un giorno l'avevi usata per punire un vicino che ti accusava di TVI, tu eri andato in villeggiatura, l'avevi lasciata attaccata, e quindi sei tornato e detto, vedi che non ero io. Quello era una storia un pochino che adesso te la racconto in maniera un pochino abbreviata. Mi accusavano, allora avevo una Grand Prix nel terrazzino, avevo nell'altra casa dove abitavo, e mi accusavano che non vedevano, che disturbavo, insomma, facevo tutti guai. Allora mi sono rotto le scatole, me ne sono andato in piedi e gli ho lasciato il coso attaccato per una settimana all'antenna, perché c'era l'antenna centralizzata, e tutta la settimana non nessuno ha visto la televisione. E si erano convinti, e dice, no, non è lui, no, in effetti non ero io che disturbavo. Non ero io che disturbavo nella maniera più assoluta. Poi alla fine mi sono incavolato, ho fatto, beh, ascoltate, adesso l'antenna della televisione la metto a posto io, fatemi entrare nel sottotetto dell'appartamento che c'era a fianco a me, perché era un appartamento a quattro appartamenti, e la metto a posto io. E io la sera, quando sono rientrato al lavoro, al buio, deve, ci ho messo l'amplificatore dovuto e tutto quanto, e nel frattempo poi avevo dato ordine a casa, metti la radio da portante sempre fissa così e farla trasmettere, e poi vediamo un po' se dà fastidio. E infatti non andava nessun fastidio nella maniera più assoluta, perché avevo messo l'amplificatore come si deve, avevo messo, e poi avevo chiamato tutti quanti, e uno alla volta, no, dimmi Maria, ad esempio, quella che abitava sotto di noi all'altra parte, però com'è, bene, si vede, sì, benissimo, chiarissimo, guardato Marco, benissimo, tutto a posto, signora Bassi, com'è, tutto a posto, perfetto, ma bisogna vedere quando trasmette, guardate che sta già trasmettendo, il baracchino sta già trasmettendo da almeno 10 minuti, perché c'è la radio, sentite, c'è la musica, non era la mia antenna, era l'antenna che era fatta male, perché chiamavamo sempre uno radiotecnico che non capiva un accidente di antennista, capito Marco? Anche quello può capitare. Quella è una prova che ho fatto anch'io, vabbè, sul mio televisore. Allora, in poche parole, ho preso un baracchino, sono andato sul canale Alfa, attaccato linea retto, senza quel filtro famoso, senza filtro, nulla. E col microfono a tavola ho messo come musica qualcosina da, in modo tale da avere anche l'audio. Ho carrellato tutti i canali possibili del digitale terrestre mio, niente, non c'era modo di disturbare. Poi avevo chiesto 2-3 giorni dopo quello dell'ultimo piano, mi pare fosse il figlio del proprietario, adesso non so se abbia affittato ad altri. Siccome lui ha l'antenna TV attaccata proprio a quella mia del baracchino, ho chiesto 2 o 3 giorni notte, ma questi giorni avete visto bene, la TV si vedeva bene? Sì, sì. Insomma, scorretta uno, tutto a posto, quindi non disturbavo né da me e né da lui che aveva l'antenna proprio attaccata alla mia antenna del baracchino. Capito? Con questo sistema lì, PTT del bloccato, del mic da tavolo, con un po' di musichetta presa, boh, forse dallo smartphone, tanto per dargli audio, carrellati i canali da me, almeno quelli che seguo io, cioè fino al 50, 60, adesso non mi ricordo, e nessun problema. Quindi come vedi, cioè, se l'impianto TV è fatto bene, disturbi non dovrebbe prendere, a meno che la radio non sia talmente abominevole. Per esempio il Magnum Omega Force che io ho avuto, quello è, in casa era una maledizione, però mandava tanta di quella mondezza, tante di quelle spurie armoniche, per carità. Quelle erano proprio radio cacciarone, che ci aveva, loro dicevano 80 watt P e P in AM, figurati che monizzaio che era, fortissimo, usciva di radio fortissimo, ma mandava in aria spazzatura, capito? E forse quello era stato il motivo delle lamentele dell'epoca, però sempre che non fosse una finta, vabbè. Sì, ma io li avevo convinti, perché me ne sono andato in campeggio, sono stato una settimana, quando sono rientrato, allora poi è tutto molto tranquillo, allora dice no, non c'è, dunque non può essere tutto, se non c'è, si erano convinti, pensa che mi accusavano anche quando non c'ero, che ero al lavoro, secondo loro io stavo disturbando la loro televisione, invece era l'impianto fatto male, in una maniera assurda, che poi era un impianto che pagavamo in quattro famiglie diviso, e c'era un'antennista che abitava vicino a casa, ed era amico di qualcuno di questi, e chiamavano questo deficiente, che poi non era antennista, era radio tecnico, però c'era una differenza enorme tra il radio tecnico e l'antennista, perché l'antennista sta di antenna, e il radio tecnico sta di TV e di radio, e sono due decisi, sì, che possono essere accumulati l'uno con l'altro, però sono completamente differenti. L'esperienza dell'antennista, almeno per quanto riguarda l'impianto dell'antenna, è di gran lunga superiore a quello di un radio tecnico, a meno che non sia un radio tecnico che ha fatto anche esperienza in questo settore lì, ma difficilmente fanno, cioè non si abbassano, poche parole, a fare l'antennista, capito? Per esempio, gli antennisti mandano sempre i ragazzi e poi i giovanotti, eccetera, eccetera. Infatti io mi ricordo, io l'ho fatto l'antennista quando facevo allora l'elettricista, e il radiotecnico che era lì in laboratorio, no, quando tu gli parlavi di antenna quasi quasi si offendeva, e ti mandava a me, mandava a Antonio Scarpa, buonanima, quello che è di Cappuccini, che aveva il negozio lì di Scarpa, andavamo insieme, andavamo a fare le antenne sui tetti, per cui una certa esperienza di antenna l'avevo acquisita anch'io, capito, o Marco? Il leggendario Antonio Scarpa, sì, era qua a fianco a casa praticamente, giravi l'angolo, eri nel negozio, e noi quante cose abbiamo preso in passato, soprattutto più che altro anni 80, 90, poi è arrivato Shan, ha inflazionato tutto, e vabbè. Come è cambiata Sassari rispetto a una volta, tutto il centro morto, Modica, sai, merceria, aveva di tutto di più, merceria no, tessuti, bottoni, cose particolari, tutto, Modica chiuso, Losa chiuso, mi pare che abbia chiuso, Piras non so nemmeno se esiste ancora, ma che non durerà molto, Pasquale ha chiuso, tutto il trigliore dei negozietti di scarpa al centro, Bellini, tutto il malora, vabbè, la colpa è anche nostra che magari andavamo ai grandi magazzini, ai centri commerciali a pigliarci le scarpe lì, il vestiario lì, anziché andare nei negozi, nei piccoli negozi del centro, ed inevitabile epilogo è stato quello. che dire, vabbè, il pesce grande mangia il pesce piccolo, d'altronde è così anche in natura. Vediamo se è rientrato Antonello. No, non è rientrato, no. Ce farà Don Antonello. Ciao Ottore, ben entrato. Compagnia di Giulio, di Pomponio che è momentaneamente assente e di Marco. Vai Ottore. Sì, buonasera a tutti e due. Il signor Giulio anche. Ciao Ottore, ben arrivato. Non come fuori tempo ci si risente. E questo è bello. È importante soprattutto, perché significa che siamo ancora vivi. Questa è una piccola battuta. Capito Marco come funzionava? Io ho lavorato anche con Usai, quello che aveva il negozio di elettricità, non di elettricità, di elettrica. Vabbè, vendeva soprattutto elettrodomestici in via d'Italia, ho lavorato anche con quello, ho lavorato con quello alla Fiorentina, al corso di fronte allo più vecchio, quello del corso, quello che di una volta, e la famo insieme, io e Antonio, cioè io e Tonino Usai. Poi quando mi ero spostato e sono entrato da Pino Mu, sono entrato e c'era un certo radiotecnico, un certo signor Brusa, c'era radiotecnico quello, e c'era anche Antonio Scarpa, eravamo ragazzi, sia io che Antonio Scarpa, noi eravamo giovanotti proprio, nel vero senso della parola, 18 anni, una cosa del genere. E dunque noi eravamo quelli che addetti agli impianti di televisione, della televisione, di antenne TV, e andavamo, tu non hai idea di quante tegole che sono tenute sui piedi, si sono frantumate quando salivamo i tetti a San Sari, i tetti con le tegole tutte marce, se puoi immaginare. Ebbene, salato, oltretutto molto rischioso, era il lavoro e si doveva fare, mentre invece quando perché quando eravamo in inverno voi scherzando chiaramente, vabbè canarino Bassendi caldi, allora ma se c'è il cappello e piantare l'antenna, facevamo questi lavori qua, sto parlando di 60 anni fa, per cui non è stata una cosa di utile. E vabbè, riprende Marco e fai girare tu, vai. Vediamo se qualcuno vuole entrare, avanti. No, il canarino fa entrare. Tanto che si affruscia bene. Giulio, ho notato che, altre volte anche l'ho notato, c'è uno che parli tu e preme. E si sente questo effetto vibrato sulla voce. Preme quando parli tu, oggi ha aggiunto anche il fischio. Fischietta. È una cosa che ho notato già più e più volte. Boh. Arconci sei il motore? Sì, è un canarino gruvecco verde. Santo bruciava me. Aiuto, siamo tutti qua. Se volete entrare, entrate, parliamo, scazziamo. Basta che entriate però, non mettete portante, dai. Vai Giulio. Vabbè, figurate se gli imbecilli muoiono. Gli imbecilli non muoiono mai, sono sempre incinta. Le madri degli imbecilli sono sempre incinta, Marco. Per cui non c'è da meravigliarsi, figurati. Cosa vuoi che ti dica? Tutto ciò che fanno gli altri, guarda, intanto poi si ripercuote contro. Potrei anche capire, intuire chi è, perché c'è qualcuno che magari, se tu non gli dai ragione, con la sua mentalità contorta, potrebbe essere quell'elemento, ma naturalmente non accuso nessuno, non faccio nessun nome, però sono elementi poveretti di mente soprattutto. Non è importanza, Marco, se mi senti, se ho pazienza. Avanti, Tore. Non lo sai, ce l'hanno con Giulio, ce l'hanno. Ecco cosa è. Lo sanno cosa va, se la buona fruscia e pone la portante in muro. A Tore, a te era forte, perché, allora, Giulio è 9, e lì era quasi pari, poco più, tipo 9,5 tendente a 9,10. meno male si capiva l'ondulazione, però in questi casi, Giulio, naturalmente tu sarai a 2 watt, mettine 12, quel baracchino c'ha 12 watt, cioè in casi quando serve sfruttali, dai. Vabbè, sto usando il microfono normale anche, non è un problema Marco, sto usando il microfono normale suo, quello originale, va bene così, ma lascialo fare, ma fregate, intanto gli imbecilli, ripeto, ci sono sempre, io le auguro solo una buona vita e basta, ma nell'altro mondo però, non in questa, non in questa, nell'altro mondo Marco, bene va così. No, ma poi questa non è vita, noi siamo all'inferno, quando moriremo andremo in paradiso, si spera. Vediamo se è rientrato Antonello. Antonello è andato in ferie sul suo yacht. Vai Ettore, quanto ti arrivava la portante? È lo stesso come mi stai arrivando tu, 9.10. Solo 9.10 arrivo, sono pure attaccato. Provare adesso. Credo, sono attaccato. Sì, c'è il LED acceso. Credo di essere anzi liscio, vabbè. Adesso sei 9.15. Mi stai arrivando adesso. Perché ho abbassato lo... troppo per il disturbo, quindi. Mi stai arrivando 9.15. Vabbè, di poco, quindi è quasi pari a cosa? A Giulio, da, come segnale. Vabbè, chiudiamola qua, non ha più fatto. No, però anche mesi fa, è una cosa che ho notato. Ogni tanto per la Giulia senti questa portantina mutta, di segnale quasi pari, è quasi allineato anche a te in frequenza, c'è un effetto vibrato solo nella quando parli tu, no? Cioè non è un fischio, no? Se uno dei due è più spostato rispetto all'altro fa più fischio, no? Vabbè, quello è relativo. Va bene. Di cosa stiamo parlando, Giulio? Mi sono perso io. Stiamo parlando dei negozietti del centro. Era così bello quando accompagnavo mamma lì, come si chiama? Dove c'era il bancarelle? Piazza Mercato era, sì. Tutto bancarelle, negozietti di moda, di scarpe, di borse, di vestiario, tutto in malora. È diventato il centro di spaccio dei nigeriani, il centro. Tutto in malora, vabbè. Vabbè, ormai Sassari già lo sappiamo com'è. Tutti quanti hanno chiuso, tutti quanti hanno dismesso la loro attività. Cui non c'è da meravigliarsi, lo sappiamo benissimo, ma io mi ricordo che prima facevano anche quella giornata di esposizione di bancarelle lì dove c'è il comune a Santa Caterina, dai, lì in quella zona lì, no, non era Santa Caterina, davanti al comune vecchio di Sassari, e c'erano delle bancarelle, avevano anche tante radio che vendevano, quelle radio antiche, ma le vendevano anche abbastanza care, e più di uno se le ha comprate, perché sono, io di quelle radio ne ho 6, ne ho di quelle radio antiche, Marco, tutte in ordine, tutte funzionanti, tutto a posto, solo che se ti si fulmina una valvola, perché sono valvolari, no? E costano più le valvole di quanto vale la radio, per cui non ne vale la pena tenerle, però io ce li ho da tanti anni e continuo a tenerle. Avanti Tore. No, invece l'ho data a mio cognato, quella che ci avevo, l'ultima che ci avevo l'ho data a mio cognato, a Giudebe Teni di Rugonto. Ricordate anche Piazzatola? C'erano le bancarelle anche a Piazzatola, potevi parcheggiare in macchina dal lato dal Bar Daniele a Spina dei Pesci, mi pare si parcheggiava. Adesso tutte cose pedonali, praticamente cos'è diventata Piazzatola? Un abbeveratoio notturno, basta, è così diventato. Ah mia, a questo proposito c'era un articolo, mi pare sulla Nuova Sardegna, sull'Unione Sarda, di un punto di Alghero, che probabilmente rispetto a una volta dove c'erano attività più culturali e tutto, magari più negozietti, più cuore pulsante della città, c'era proprio l'articolo che diceva che è diventato una mangiatoia, tutto ristorantini all'aperto, uno esce di casa, vedi gente che consomiglia a tutte le ore della notte soprattutto, dice, è questo, dice, il coso culturale del centro di Alghero, dice, no, è un peccato. Una mangiatoia l'hanno definito. Vai Giulio. Sì, perché ormai la gente, l'attività che continua a vivere, a sopravvivere, o meglio a farti sopravvivere, è quella dell'attività culinaria, ma le altre attività sono tutte ormai finite, o manco, non c'è più niente, non c'è più niente. Eccetto qualche negozio così, ma niente di particolare. Prima tu vedevi tante di quelle serrande aperte, invece oggi passi nelle strade più centrali di Sassari di Vecchio, è una desolazione, tutto chiuso, mentre invece oggi pizzerie e queste cose, ristoranti ce ne sono in grande quantità. A momenti ci sono più pizzerie che persone che possono andare a consumare la pizza. Io la vedo così, quando è troppo, Marco. Per non parlare poi dei grandi supermercati che hanno dato la licenza a questi grandi supermercati, che hanno contribuito, soprattutto quelli, a far chiudere tutti i negozi di piccole dimensioni. Avanti, editore. Purtroppo il grande si mangia il piccolo e ti fa fallire il piccolo, purtroppo. Hanno pensato più a far diventare i grandi supermercati, sono tutti a parte in fuori, nei quartieri, insomma, che sono grandi. Sì, ma in effetti è così. Per non parlare poi delle attività artigianali, poi non ne parliamo, ad esempio nel mio settore, nella falegnameria, ormai tu vai e trovi un falegname a Sassari, se ne trovi, cosa ne puoi trovare? Uno, due, non di più. Oggi non conviene più aprirsi un'attività di falegnameria a Sassari, perché? Perché tu vai ad Abri, come si chiama oggi, Tecnomaro, e compri le porte a 100 euro l'una, quando tu con 100 euro compri solo la ferramenta per le porte, la ferramenta e qualche barattolino di vernice per verniciarla, però tutto il resto, poi legname e compagnia cantante, non ce la puoi fare a comprarlo, perché tu non puoi fare una porta per 100 euro, 100, 110 euro, come sono lì da Brico, come. Avanti Marco. A proposito di Brico, devono aprire le Roi Merlin a Sassari, devono iniziare i lavori. Sì, chiusa la parentesi, vai Tore, che vado a bere un attimo. Quello lì sarà per fine anno, sarà. Così sono di Zelli che vogliono aprirlo. E sai cos'è tu? Arriverà il giorno che questa gente qua si farà la guerra fra di loro. Perché a quel punto lì, quando tu incominci a fare tanti negozi di una certa metratura, eccetera, cosa succede? Succede che gli incassi non saranno più quelli iniziali di quando hai aperto l'attività, perché poi la gente si divide un po' in un negozio, un po' nell'altro, e dunque le entrate sono molto molto più basse, pertanto non so quanti possono continuare a resistere troppo a lungo. Già da adesso stanno incominciando sempre a passare la mano, lo vedi, tipo ad esempio prima era Città Mercato, poi era diventato Auchan, adesso è Conad e così via, no? E così succederà per tutti gli altri negozi, prima era Bricomen, adesso è Tecnomar, è sempre così, perché passano la mano, perché a un certo momento si rendono conto che gli incassi non sono quelli che loro speravano di avere, o Tore. Infatti è così, purtroppo è così, si vedranno, se no non si fanno la guerra da adesso, se cominciano a aprire, perciò più ne aprono di questi negozi e peggio sarà per, anche per i grandi negozi. Poi non parliamo dei cinesi, ce ne sono poco di cinesi a fare, dai, che poi tra l'altro quelli vengono qua, aprono un'attività, dopo due o tre anni se ne vanno e lasciano un sacco di debiti, di tasse eccetera, e l'Italia subisce. E poi cosa la facciamo? Però noi stupidi siamo i primi che andiamo a comprare lavoro in queste negozi, perché? Perché troviamo gli articoli, le cose a, a quattro soldi, magari sono cose scadenti, però intanto una volta che tu le compri, è un po' come il discorso che ti ho fatto poc'anzi, la porta. Tu mi dirai, ma la porta comprata da Bricome è una porta leggera, una porta da quattro soldi, che se poco poco la tocchi si buca, si sfonda. Sì, ma una volta che è piazzata, quella la porta no, non la compra più, da una, non la fa fare più da nessun falegname, e dunque è un lavoro meno che hanno gli artigiani. Ecco qual è il discorso. Vediamo se è entrato Marco. Marco. Sì, eccomi, rimango poco, visto l'orario, sono le 7:30, lì mi stendo due cose e poi preparo la cena magari. E ho perso il filo, di cosa state parlando? Di Bricocenter o altro? Di quello che devo aprire. Deia. Sì, c'è certe cose carine, poi vabbè, ci andrò giusto una volta a vederlo. E così da. Niente di che, da. Forse avrà qualche mobile pronto, di quelli fatti in cartone, quei mobili premontati, quelle cosette, tu hai capito, no? Segatura compressa, no? E poi rivestita con quel laminato. Cioè, non credo che sia nemmeno un Bricomen. Aspetta che mi chiama mamma, mamma mia, ogni arrivo in Eul. Vabbè, riprendi tutto, ora vai. Sto guardando il danno che ha fatto ieri a Villa Cimius. Ma se no Rosi e Yugi. Ci stanno dando a che fare per Roma, adesso vogliono cambiare la legge, danno più pesante. Quella gente trovatevi e scoperti di essere loro i colpevoli, le avrei tagliato le mani, anzi le braccia addirittura gliele avrei tagliato, così avrebbero imparato a non mettere fuoco nelle campagne, questi delinquenti disgraziati. Purtroppo così, vabbè, quasi aveva semiuso ieri un sacco di macchine anche bruciate, tu immagini la gente che aveva parcheggiato le macchine lì tutte bruciate. E oggi l'incendio era a Uslo, un incendio abbastanza grande, è incominciato da ieri e oggi si è riacceso di nuovo, ieri l'hanno spento, invece a quanto sembra ha preso di nuovo fuoco nella zona di Uslo, per cui gli incendi sono sempre all'ordine del giorno in Sardegna, soprattutto quando c'è questo vento come oggi o come ieri. Se l'aveva fatto passare in mezzo allo fungo, a vedere se ne avviene dei buoni fungo. Ma è anche gente che arriva da fuori, che fanno queste cose. Sì, beh certo, non è che sono degli angeli, no, quelli che arrivano da fuori. Quelli che arrivano da fuori vengono qua a sfolcare, eccetera. Hai visto a Venezia? Si stanno lamentando perché arrivano e nessuno spende. Vanno nei bar e chiedono un bicchiere d'acqua dal rubinetto. Perché? Perché non vogliono spendere. Boh, forse ci sarà un motivo perché non vogliono spendere lì a Venezia, perché si portano le loro provvigioni, se le portano e vivono con quello che si portano da casa loro. Probabilmente diciamo che questi turisti che vengono adesso sono anche un po' scottati dal fatto che quando vieni in Italia le fanno pagare un sacco di soldi quando comprano quello che comprano. Per cui allora hanno deciso, il sindaco dice, allora qui per rimanere mi devi dare 100 euro, se no tu a Venezia hanno per le mani, te ne devi andare. Adesso questo qui ha tolto questa idea, però bisogna vedere se è un'idea vera che fa una cosa del genere o meno. Insomma, in poche parole, non è mi meraviglia se il turismo l'Italia lo sta rovinando con tutti i prezzi che fa. Non è possibile affrontare certi prezzi o tolle. Infatti ci arriva da fuori che va a guardare e ci porta la roba a sacco, ci porta, ecco cosa è. Invece di entrare in un bar, in un negozio o fare cosa, in un ristorante, cosa, no? E si mettono lì e ti sporcano, ecco cosa è. E il sindaco l'altro giorno si stava lamentando a Venezia che si sedevano, si mettevano e lasciavano sporco. Allora lì hanno messo le sanzioni, hanno messo. Oh, secondo me anche però i turisti temono entrare in bar e ristoranti, perché ci sono anche ristoranti, hai visto al coso della cronaca, abbastanza truffaldini, che se sono turisti soprattutto esteri che non parlano neanche italiano, gli gonfiano il conto a dismisura. Non so se avete mai visto, proprio li spennano, una truffa quasi, e per colpa magari di pochi commercianti avidi ci passano tutti, e allora i turisti non spennano, ci portano tutto al sacco. Vai Giulio. Sì, infatti stanno usando quel sistema, si portano tutto loro da casa, in viaggio, e tutto quello che gli serve per sopravvivere magari i giorni che rimangono qua, e intanto i commercianti qua non lavorano, infatti si sono lamentati i commercianti e i baristi soprattutto di Venezia, dice vengono qua e vogliono un bicchiere d'acqua, ma non un bicchiere d'acqua minerale, no, un bicchiere d'acqua dal rubinetto, in modo che non gli fai pagare niente, capito? Per cui, per non parlare poi della truffa che fanno quelli delle B&B, che poi non sono proprio quelli, gente che con quella scusa dice fa le prenotazioni, si prende i soldi, poi arriva qua e la casa invece è occupata, perché sono delle prenotazioni fasulle. Perché cosa fanno? Tu vai davanti a un B&B, lì c'è tanto di insegna, tanto di cosa, scattano la fotografia di quella facciata e poi mettono in piazza il discorso truffa. Si presentano con questo tipo di coso, e quello, il turista dice beh, ho prenotato in tale B&B, invece alla fine che cosa succede? Che quel B&B non sa niente, sono i truffatori che hanno architettato tutto e si hanno preso nel frattempo i soldi, arrivano qua e quelli hanno pagato e non hanno nemmeno la casa, non hanno nemmeno l'appartamento. E anche questo succede qui in Italia, già l'abbiamo visto in televisione, anche da poco l'hanno fatto vedere. Avanti Tore. Infatti è così. Quelli bisogna trovarli, che non sono manco italiani, e arrivi in Italia e ti fanno quello scherzo lì. Oh, una volta, non tantissimi anni fa, no? Sai, con lo scanner sentivi tante cose. E c'era un forestale inviperito, dice guarda, dice, lo vedo col binocolo, quell'animale è uscito dalla macchia, è tornato di nuovo a mettere fuoco, dice, a pigliarlo, a buttarlo nel fuoco, proprio stavano sclerando, tu immagina, rischiando la pelle, proprio lo vedevano al binocolo, usciva dalla macchia e rimetteva fuoco, e quello ha detto, ci sarebbe a pigliarlo e buttarlo nel fuoco. Ma è strano che tutti gli anni succedano tutti questi incendi. Io mi ricordo da ragazzo di questi incendi, così non ne sentivo qualcuno qualche volta, ma veramente qualcuno. Oggi invece tutti gli anni, soprattutto nelle giornate dove c'è vento, caspita, è una cosa impressionante, 25, 26, 28, 30 incendi al giorno in Sardegna. Ma come si fa? Non è possibile, guarda, non è possibile. Lì c'è la mano dell'uomo, la mano del delinquente che va ad incendiare le campagne, perché per quanto caldo possa fare, difficilmente la campagna si incendia se non c'è il piromane che gli mette fuoco. Questi sono dei delinquenti veri e propri, magari possono essere anche gli stessi proprietari delle campagne, perché durante l'anno non la lavorano la terra, e allora con la scusa che viene bruciata, sai, e poi chiedono il finanziamento dalla regione e dallo Stato, e loro prendono soldi senza aver fatto niente tutto l'anno, con la scusa che hanno avuto questo problema di incendi, perché più di uno sono convinto che lo fa quel discorso. Vai Tore. Mario, per ricrescere tutto quanto ci vogliono 20-30 anni, ci vogliono per ricrescere tutto. Adesso invece i finanziamenti hanno detto che non ne danno a nessuno di questi, se hanno bruciato peggio per loro, se ci rimettono. E intanto io gli avrei espropriato il terreno, tu hai questo terreno, è di tua proprietà, e allora tu questo terreno lo devi tenere in ordine, non lo puoi far diventare una boscaglia, perché se lo fai diventare una boscaglia diventa un rischio grandissimo, diventa non solo per la tua terra, ma anche per quelle che ci sono vicini, perché se no è inutile, perché se tu hai questo terreno e sei un'azienda, perché sei un'azienda, hai anche degli animali eccetera, poi siccome non sei soddisfatto o non hai voglia di lavorare alla terra, prendi e metti fuoco, così poi chiedi il finanziamento dalla regione. Ma ti sembra giusto questo? Questa è una cosa sbagliatissima, proprio una truffa in piena attività malavitosa, Ottone. Buonasera. Ciao Gianni, avanti. Dai, scusate, ma sono entrato in tardi perché stavo facendo roba. Non c'è giù in questo momento, dai. Volevo vedere se c'era qualcuno e già mi avete dato la buona notizia, dai. Che qualcuno c'era. Ok, e ancora io uno o due passaggi e poi devo chiudere per forza. Per forza, lo sai, no? Per fare sempre la solita terapia, anzi diciamo che sono già 10 minuti in ritardo, comunque un paio di passaggi, visto che sei entrato tu, adesso ce ne manco, ma veramente un paio. C'è Tore con me, c'è anche Marco non so se pure è entrato perché si era assentato un attimo. Avanti Tore per Gianni. Sì, ciao Gianni. Io invece vi devo lasciare, anche mi devo ubbidire i bacchini. Ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Gianni, ciao Giulio, ciao Marco. Ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao a tutti, ciao anche agli ascoltatori, con le orecchie grandi grandi. Ciao Tore, ciao! Ciao Tore, buon corretti, sentiamo, entra più spesso. Ciao Gianni, ben sentito. E noi siamo, Giulio, con te, 6:15 credo. E abbiamo iniziato con Antonello, che Antonello sicuramente era a fare. Io invece ho trascurato le faccendine che dovevo fare così, mezza serata, me le faccio dopo. Infatti anche io a breve chiuderò. Vabbè, ben sentito, vai Giulio. Sono qui per salutare a Tore, che è andato via. Ciao Tore, grazie per la chiacchierata, alle prossime, ci sentiamo. Sì, Gianni adesso è entrato e per cui ti lascio con lui, o Marco, è entrato a quest'ora, ma io a quest'ora sono come Tore se prende le pastiglie, e altrettanto io devo fare la stessa cosa, che sono già invitato, perché la dovrei fare verso le 7:30, e sono già le 7:15 quasi, cioè le 8:15 quasi, e pertanto sono già abbastanza in ritardo. Io vi ringrazio tutti, ciao già, alle prossime, magari domani se ci sei, prova a entrare un po' più presto se coincidono gli orari, e così facciamo quattro chiacchiere. Ciao Gianni, grazie comunque per essere entrato. Ciao Marco, grazie anche a te per il QSO, ci sentiamo, dai, ascolto finalino poi chiudo. Vai Gianni. E là, ciao Giulio, ci sentiamo, dai, è stato un piacere, anche se per poco. Avanti Marco, dai, buonasera anche a te, non ti ho salutato poco fa, mi è sfuggito, dai. Avanti, riprendi tu. Ehi, hey, bianco un attimo. Ciao Giulio, dai, ben sentito, cioè, bella chiacchierata, e ci sentiamo quando capita, dai. Io, vabbè, farò girare un po' di apparati perché sennò si guastano. Già, questo è allora tuo quasi del cane, è giusto? Quasi le 8:15, cazzarola. Vabbè, dai, già lo faccio dopo le cose. E cosa mi racconti? Noi abbiamo parlato un po' di varie cose, di radio, di coso, di TV, di Teleobiettivo Sardegna, della morte del centro storico di Sassari, dei centri commerciali che si sono mangiati tutti e tutti. Ma infatti io per me se non avrei dato più, perché ci sono più centri commerciali che abitanti. Ma vabbè, comunque questi negozietti qui sono tutti morti, i negozietti che prima aiutavano le... Ti ricordi che in Piazza Tola anche c'era uno storico negozio di caccia e pesca? Sembrava un bugigato, l'aveva marche tipo Shakespeare, Abu Cardinal, quelle marche dell'epoca, anni 80, che andavano e costavano un bel. Ma i prezzi che aveva erano fuori portata per me che ero un ragazzino, bambino. Ci siamo sovramodulati. Non me lo dire, no, dicevo già, stavamo parlando anche di Piazza Tola, ti ricordi che, non scusa, non Piazza Tola, Piazza Mercatoli, c'era un negozio di canne da pesca, roba pregiata, marca Abu Cardinal, Shakespeare, Shimano, e aveva dei prezzi però da gioielleria, cioè per me che ero bambino all'epoca erano proibitivi. Era sembrava un negozietto, un bugigato, eppure aveva tutta roba di marca. Sì, me lo ricordo, mi servivo anche, me lo ricordo. Poi c'era anche in Piazza Mercato, c'era un armiere, te lo ricordi? Un armiere addirittura, no, l'armiere non me lo ricordo, sempre in quella piazzetta. In Piazza Mercato però, Piazza Mercato dove c'erano le bancarelle eccetera, dietro c'era un armiere che praticamente aggiustava le pistole e tutto quanto, cambiava gli ingranaggi, faceva queste cose qua, era proprio un artigiano, va. Ah, no, io di roba, il più vicino in quella zona, Gambella, armiere, ma era un grande negozio, vabbè, poi al corso, non è proprio lì, infatti ho sbagliato di un chilometro, vabbè. E poi lì dietro lì c'era un negozio che però era solo di roba militare, mi pare si chiamasse Military Store, trovavi di tutto e di più, divise americane, zainetti, borracce, mamma mia quanto era bello quel negozio, andavo a sbavare a guardarmi la roba. Quando c'avevo qualche soldino o qualcosa prendevo anche. Già me lo ricordo, sì. C'erano diversi, c'erano anche quelli che vendevano i camici da lavoro, in Piazza Mercato, tutti questi negozietti qua. In Piazza Tola c'era anche quello che vendeva tutta la roba in plastica, bacinelle, gabbie, tutte queste robe qua, non te lo ricordo. Ecco. Avanti. Buonasera, la rotta. Ciao Antonio, ben sentito. Buonasera Gianni. Pensavo che non ti riconoscessi. E vabbè, io stavo per chiudere per portare giù il cane. Come va Antonio? Bene, bene, l'ho fatto apposta, credevo che non ti riconoscevamo. Buonasera a tutti. Si parti piano piano. Ma io sono il vulpino della frequenza, riconosco a tutti. Maledizione, non ti sfugge nulla. Lo senti a Marco, avanti per Antonio Diussi. No, ma infatti dicevo, ma Antonello di Ossilandia, non lo sento da mille anni, però la voce è bella, chiara, limpida, segnale più che ottimo, mi pare sia un 9. Vai avanti Antonello. Capo, buonasera anche a te. No, già ci sono sempre in radioascolto, sto facendo molto radioascolto. Adesso poi mi sistemato di nuovo tutta la stazione, dunque si riprende di nuovo, dai. Poi so che stanno sorgendo gruppi, un gruppo di ex nuovo, tipo Alfa Tango, sai quelle cose, un gruppo nuovo, c'hanno anche la chat, me lo raccontava Giulio, la chat di WhatsApp, è così, quindi è interessante, finché la propagazione regge. Adesso vabbè, è cambiato il tempo, è diminuita tra oggi, ieri, eccetera. Però una bella cosa. Ascolta, Antonio, in breve, tu hai sempre quell'antenna AV? Esattamente, sto utilizzando questa. Sì, diciamo. Aspetta che ti rilancio. La mia stazione nuova, diciamo, è un centro storico molto, molto più basso di cui mi trovavo, ecco, sì, sempre quella lì, quella cornuta. Sì, Gianni, c'è ancora? Che hai detto che devi andare, oh, io ho già chiuso. No, non ho chiuso, dai, stavo aspettando che mi rilanciavo per salutarvi a tutti. Antonio, mi dispiace, ma devo andare col cane che mi sta chiamando. Dai, ci sentiamo, tu Cucciuccio ancora ce l'hai. Quale già, scusa, il? Il cane ancora ce l'ha. No, no, no, no, no, niente. Per il momento sono solo. Ho capito, dai. Dai, buone cose, ci sentiamo ancora, fatti sentire. Ciao Marco, grazie per il questione, anche se breve, ma devo andare perché poi devo uscire, dai, ciao. Ciao Gianni, dai, buona passeggiata col Monello. Scappa, ciao Gianni, alla prossima. E quindi Antone, insomma, stiamo tutti chiudendo, perché ho trascurato le faccende di casa. C'era un po' di gente prima, anche il Torello Pomponio, poi ognuno c'ha, le priorità cambiano, ognuno c'ha sempre da fare, quindi alla fine entra poca gente. Anzi, oggi, vabbè, abbastanza gente, gli altri giorni non so perché non c'ero io, ecco, non, cioè magari acceso ma il volume a zero, oppure non faccio carrellata, capito? Cappa, no vabbè, anzi in questo momento adesso non so se questa antenna dovrebbe essere omnidirezionale, ma volevo sperimentarlo un po' a provare a direzionarla, non so. Comunque in questo momento sto usando l'aiutino e se mi dice il segnale per cortesia poi lo metto in originale, vediamo un po' la differenza, diciamo, della tua postazione. Allora, senza modulare 9, qua è LED, LCD, no? Quindi quando moduli lampeggia, però quello è per la modulazione, quindi 9, anch'io sono aiutato però, anzi c'è volte mi dimentico anche che devo spegnerlo, quindi aiutato diciamo una settantina, ecco. Cavolo, guarda, adesso ho diminuito, adesso sono con esattamente 5 watt modulati. Allora, senza modulare, quando fai le pause, lampeggia, l'8 lampeggia, quindi vuol dire che è un 7,5. L'importante muta, vai. Sì, non è un 8 pieno. Lampeggia l'8, quindi 7,5, dai. Poi con questi LED bisogna sempre accontentarsi di interpretare e dare segnali. Però è coerente, dai. Ti faccio la prova io anche. Oh, aspetta. Così dovrebbero essere, presumo, 4 più o meno, dai, facciamo 4. Perfetto, io in questo momento sto utilizzando il Midland alla 68S, originale, da 9,5 si è arrivato a Santiago 7, a Radio 5, la radio è cambiata. Ecco. Sempre bella prima e dopo. Registrato. Santiago, ecco la verità, no, non contento di questa antenna, fa di volere. Ho registrato un break, avanti. Ciao Marco, se c'è qualcuno, guarda a caso siete da te, poi l'amico che non conosco. Comunque Roberto da questa parte, ciao Marco, e rilancio a te che poi mi farai presente che l'amico. Ciao Robè, sempre fondo scalissima, ma eri tu sul 9 che stavi accordando, ho visto un segnale di assente molto forte, eccetera. Sì, Antonello Di Rossi, strano che non l'abbiamo mai sentito, forse magari non avevi riconosciuto dalla modulazione. Vai Roberto. Ah cavolo, ce lo conosco Antonello, già ci ha sentito. No, non stavo accordando niente, siccome sto provando questo accordatore antenna piccolino, quelli cinesi, che è bellissimo, ti dà la potenza, tutto digitale, ma è un giocattolino che costa 60 euro ma è micidiale, in un secondo accorda. Adesso vediamo se funziona. Adesso in questo momento SVR 1.19 mi sta dando in antenna dei 50 watt in uscita e l'efficienza 99%, mi ci dai. Ciao Antonello, ti saluto, sono da un po' che non ti sentivo e ti rilascio, avanti. Capo, buonasera, proprio Barracuda. Roberto Quadrato, se ti ricordi, ci ho sentito tante volte, ti ascolto senza problemi, superi il 9 qualcosina, quasi 9,5, dai, ti do il segnale del rapporto. Ci sono sempre. Poi sistemato l'antenna, non sono di nuovo ben operativo. Tu da parte mia, Santiago 9, radio super 5. Forse ti ho parlato sopra, Antonello. 9 quasi 10 in questo passaggio, ti ascolto. Magari se riesci a sollevare un po' il microfono andrebbe meglio rispetto a Marco, però la modulazione è chiara e comprensibile senza nessun problema. Io ho sempre la solita antenna, la Mantova 1, ce l'ho dal 2005, mi sembra che l'ho installata con l'antenna. Prima avevo la Grand Prix nel 2004. E tu mi sembra abbia anche tu una Mantova, o sbaglio, mi confermi? No, io ho un'antenna cornuta, sto utilizzando della Smart Tech, l'avevo comprata all'epoca del Covid. No, ti ascolto senza nessun problema. Ok, passiamo il mic a cosa? Marco, che se no rimane annoiato. Vai Marco. No, magari annoiato no, dai. D'altronde è già un'oretta che siamo qua. E, peraltro mi stavo già annunciando quasi il quaretti perché ho necessità di staccare e fare roba. E, se no viene tutto a grea assieme. Roberto, vabbè, giustamente entra a quest'ora perché prima non può e tutti se ne vanno. Prima un attimo fa, Roberto, c'è più persone e poi vabbè il fuggi.